Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena di oggi è quella di un batterista, musicista e ora anche scrittore. Tempo è un marinaio, giura di restare appena s'alza il vento, vuole un altro mare e ne siamo con il tempo pronti a correre, a scommettere, a scappare, a farci prendere, per dirci poi ricordati di me. A 6 anni riceve in regalo la sua prima batteria, ma poi si dedica soprattutto al nuoto agonistico. Negli anni del liceo si riaffaccia alla passione per la musica. Dall'Inghilterra una sua compagna di classe porta a Roma una serie di 33 giri, tra i quali quello di un gruppo sconosciuto, i Beatles. Su quella musica impara per emulazione i primi rudimenti di batteria. Senza saper davvero suonare, entra a far parte dei Sunshines, dagli Scantinati al Piper, con le prime band. Con il Punto partecipa nel 1970 al Festival di Caracalla. Nel settembre del 71 entra nei Pooh. Percussioni, tubular bells, vibrafono, armonica e flauto traverso sono gli strumenti che suonerà nel gruppo, di cui sarà ovviamente anche voce. Con il gruppo più longevo della musica italiana suona per 38 anni. Nell'aprile del 2009, in concomitanza con l'uscita del singolo Ancora una notte insieme, annuncia la sua intenzione di lasciare la band. L'ultimo concerto il 30 settembre dello stesso anno. Comincia a dedicarsi a un'altra grande passione, il musical. Forte dell'esperienza vissuta con Saverio Marconi nella realizzazione di Pinocchio, si dedica alla scrittura di Aladdin, per il quale chiede la collaborazione dei suoi ex colleghi. Nel frattempo realizza i testi italiani di Mamma Mia. Nel dicembre 2012 lancia un nuovo musical, Zorro, ma pubblica anche la sua autobiografia, Confesso che ho stonato una vita da Pooh. Lui è Stefano Dorazio. È involontaria questa cosa. Io mi ricordo che ho cominciato nel 66 ad appuntarmi tutto quello che avrei dovuto fare il giorno dopo, in realtà. Dove facevo le cose mettevo la crocetta, quando non le facevo mettevo il pallino e lo rimettevo al giorno successivo. Questa roba me la sono ritrovata, perché non l'ho mai buttata in realtà. Un po' a casa a Milano, un po' a casa a Bergamo, un po' a casa a Roma, un po' a Pantelleria. Un certo giorno mi sono reso conto che di qui e di là c'avevo tutto. Perché quando finiva l'anno da qualche parte, lì lasciavo l'agenda vecchia e ne cominciavo una nuova. E quando ho cominciato a scrivere questo libro, che c'avevo in mente già da diverso tempo, perché la mia velleità di raccontarmi in negativo in qualche modo, evitare appunto, come ti dicevo un attimo fa, le autocelebrazioni e quant'altro, raccontare quelle cose che un altro invece nelle autobiografie, quelle da persona per bene e seria, uno le mette da una parte, no? Scoprivo nomi, cavolo, oh no, questo è fortissimo, e mi veniva da raccontare. Il libro nasce di 800 pagine, poi mi hanno detto alla Feltrinelli che avevo fumato, e mi hanno detto farne 200. Io dico, come comincia a fare? Poi si vede che hanno cominciato a leggere l'800 e mi hanno detto, guarda, facciamo una cosa, come scorre benissimo, facciamo 400 al chilo, facciamo 400, chiudiamolo lì. E si vede che le cazzate che ho fatto sono talmente tante che 400 pagine non bastavano, no, in realtà. Poi alla fine siamo riusciti a mettere qua dentro. E quando gli ho consegnato l'ultima versione, questa, è bello che mi hanno detto, lo sai che potevamo lasciare anche le 800 perché funziona? Ma disgraziati, 6 mesi ci ho lavorato per tagliare. La ragazza con gli occhi di sole cominciava ogni giorno la vita, super treno di folla e di fumo che dal mare portava in città. Vabbè, il titolo è Confesso che ho stonato, perché davvero tu racconti tutto, dalle marachelle da bambino alle marachelle da più grande, nessuna censura. Che carina che le chiami marachelle, bellissima questa cosa. Beh, perché non le posso raccontare, io le ho lette, però insomma sono anche cose sempre nei limiti della legalità più o meno. Ma sì, ti dico che poi alla fine sono cose che credo che tutti quanti abbiamo più o meno attraversato, no, momenti del genere. Io ero un pochino più delinquente degli altri, forse, perché mi veniva meglio, no? Sì, ok, molti reati sono caduti in prescrizione, devo dire, per cui non ti viene da leggerli in una chiave di negatività. Anzi, io credo che se sono quello che sono, perché sono passato attraverso questo tipo di esperienza, questo tipo di gioco, questo tipo di sfacciataggine, a questa autoironia, no? Che mi ha sempre salvato la vita, perché credo che, mi diceva mio padre una cosa molto carina, che se tu non riesci a ridere di te stesso e quindi dei tuoi difetti, non potrai mai tollerare quelli degli altri, perché quando tu viceversa ti rendi conto che i tuoi difetti sono tali e tanti, quando qualcuno ti fa qualcosa che non coincide, gli dici, vabbè, questo, figurati, può succedere a tutti, no? Diventi più tollerante, più comprensivo, più tutto. Il 25 aprile la guerra era di casa, viveva forte fuori dalla chiesa. Era nell'aria, la vita una scommessa, ma il prete continuava la sua messa. In questo libro ci sei tu, c'è la tua storia, ma in filigrana c'è anche la storia d'Italia e c'è anche la storia della musica, della discografia, di come sono cambiati i tempi. Questa cosa immagino che sia spontanea, che tu non l'abbia pensata, però c'è. Beh, sì, sai, io credo che tutti quanti noi, se dovessimo raccontare un pochino delle nostre cose, mentre le racconti, te le ambienti nel momento in cui sono successe, per cui contemporaneamente, volendo raccontare di qualcosa di tuo, racconti di quello che c'era intorno. Quindi mi capita di raccontare l'Italia, delle mie amicizie, di Carmelo Bene, di Dario Bellezza, che in qualche maniera sono passati attraverso questi miei giorni di vita adolescenziali. E poi tutto il resto, perché poi le tappe storiche, no? Le Olimpiadi a Roma che hanno segnato per me un gioco nuovo, perché tutto nasce dall'idea di raccontare di quando scavalcavo i fili del tram con quei cavalcavia improbabili che avevano costruito a Monteverde dove io abitavo. E mi arrampicavo dal di sotto e in automatico, per raccontare perché mai avessero fatto questa cosa, ti viene da raccontare com'era la Roma di quei giorni, com'era la Roma di qualche giorno prima, come è arrivata la Via Olimpica, come Monteverde da un angolo di periferia era diventato il centro di Roma e così via. Insomma, è chiaro che si allestiscono dei ricordi intorno a delle storie che effettivamente poi ci hanno accompagnato, no? Yuri Gagarin che era sparato nello spazio e noi col naso per aria perché speravamo di vederlo, insomma, qualche modo. Poi a un certo punto c'è l'incontro con i Pooh, una favola, una storia bellissima, però in tanti rimangono delusi per il fatto che in realtà tu te ne sei andato senza litigare, avresti dovuto inventarvi Infatti ti qualcosa. dico che nell'immaginario collettivo c'è sempre questa idea che quando un gruppo si scioglie finisce a chitarrate sui denti, no? Invece noi è stato un saluto meditato, nel senso che io una certa mattina mi svegliai dopo una riunione di quelle triennali che noi facevamo per fare progetti per il futuro, e dove io aprivo le ostilità ogni 3 anni raccontando quali potevano essere le prospettive, le idee, possiamo fare questo, questo, questo, questo e quest'altro. Dopodiché i miei colleghi dicevano la loro, e poi di tutto questo se ne forgiava un'idea unica che poi diventava il progetto del triennio successivo. Io quando mi trovai quella mattina a raccontare questa mia grande idea per il futuro, mi resi conto che non ero convinto io per primo, quindi come potevo convincere loro? Ci mettevo sempre un sacco di verve, no, in tutto questo. E quindi ci dormii sopra e la mattina dopo dico: sai che c'è? Che io mi sa che non mi va più di fa po'. E loro la presero abbastanza sul ridere, della serie: Madonna, di cavolate, va tutto bene, siamo primi in classifica, funziona tutto, ci stanno proponendo un contratto per l'ennesima volta straordinario e tu mi vieni a dire che non ti va più, cioè ripiade. E io ci ho messo 3 anni a far passare queste idee ai miei colleghi, traghettando la situazione Pooh in quattro a proporre Pooh in tre, perché no? Se voi ancora avete tutta questa energia, queste fantasie, e siete ancora emozionati nel fare questa storia, credo che voi dobbiate assolutamente andare avanti. Io invece non ce l'ho più sta roba. Mi sono reso conto all'improvviso che questi miei anni di vita erano passati affollatissimi, fortunatissimi, straordinariamente pieni di soddisfazione, ma che in quella famosa bottiglia da 1 litro che io dico sempre che ognuno di noi è, ci avevo messo soltanto del Pooh. E quindi era arrivato forse il momento di vuotarla e vedere se ci poteva cadere dentro qualche altra cosa. E questa cosa qui i miei colleghi non hanno mai condiviso questa mia scelta, però l'hanno capita, al di là del fatto, e questo è molto bello perché vuol dire che noi siamo, indipendentemente dal business, dal denaro e da quanto intorno ad un'operazione del genere può esserci, siamo amici. Per cui, messa da parte gli interessi, i calcoli e quant'altro, l'amicizia prevede anche l'eventualità di farti contento, no? Separano e ci oppongono. C'è una cosa che appare da questo libro ed è il fatto che tu sei sempre stato molto fatalista, molto sportivo, anche quando combinavi le cose, a un certo punto dicevi, vabbè, ma tanto poi in qualche modo le sistemo, alla fine ci penso dopo. È la chiave giusta per provarci e per avere successo? Beh sì, certo, Io credo che se tu ti poni un limite unico e quindi se ti va male quella, basta, finito, ok, no, non vai da nessuna parte. Devi poter scommettere, devi avere un pochino di fiducia che le cose che stai fantasticando potrebbero davvero succedere, no? E allora questo, poi se non succedono, dici, vabbè, stavo fantasticando, mica colpa mia, in fondo, no? Pensare alla grande, no? Non dire, io, che fai stasera? Mi sa che alle 7:30 metto il pigiama e vado a letto, no? Io stasera scopro l'America, vado, mi faccio sparare nello spazio, cioè, poi mi metto in pigiama alle 7:30, però mi piace pensare che ci sia qualche altra cosa da fare, ci sia una. Allora questa cosa ti stimola da morire, anche perché quando poi ti dai questi o racconti, perché la cosa ancora più stimolante è dire facciamo questa cosa perché succederà questo, tu fai di tutto perché succeda, se no fai una figura di merda, no? Per cui Era quella di Stefano Dorazio, la prima voce in scena di oggi. Ci ritroviamo tra poco. Torniamo insieme con Voci in Scena. La seconda voce in scena di oggi è quella di un cantante genovese, quest'anno pluripremiato. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il direttore. È nato a Genova nel 1960. Inizia a studiare pianoforte da bambino e a 20 anni scopre anche la musica leggera e rock, alternando questa passione al suo lavoro di camallo al porto. Per il primo singolo del 1988 è nascosto dietro lo pseudonimo Espressione Musica. Nel 1989 pubblica il suo album d'esordio Cartoons, premiato come rivelazione a Saint Vincent e vince la Targa Tenco come miglior opera prima. Nello stesso anno vince un disco per l'estate con Figlio unico. Nel secondo album, Il pianoforte non è il mio forte, c'è il singolo Le donne di Modena e la presenza in Genova Blues dell'amico Fabrizio De André. Nel 1990 vince il Festival Bar con Sotto questo sole, in coppia con Paolo Belli e i Ladri di biciclette. È con Nomi e cognomi del 1992 però che ottiene il maggior successo commerciale. Negli anni successivi alterna successi a periodi di silenzio ed inattività. Partecipa al Festival di Sanremo 1997. Nel 2004 esordisce in teatro come attore protagonista nel musical Orco Loco. Nel 2005 l'esperienza del reality televisivo Music Farm. Nel 2008 esordisce come attore cinematografico in Zoé di Giuseppe Varlotta. Nel 2011 il tour teatrale Baccini canta Tenco, interamente dedicato alla riscoperta del cantautore. Con il tour vince diversi premi, soprattutto la Targa Tenco 2012 come miglior interprete. Lui è Francesco Baccini. Beh, sicuramente fa piacere perché quando, come dire, sei premiato vuol dire che quello, così, l'idea che ti eri fatto di un progetto che poi è diventato reale, e quindi voleva dire che era nella direzione giusta. E quando è nato questo progetto è veramente nato così, da un viaggio in macchina dove mi venne in mente questa sfida, questa scommessa. La prima persona che ho tirato dentro si chiamava Pippi Morgia, purtroppo lui non c'è più. E non ha potuto neanche così vedere tutti questi premi, magari li vede da un'altra parte. Però tu con Tenco avevi avuto altri incontri, perché una somiglianza che ti avevano Sì. raccontato e segnalato tanti fin da quando eri ragazzino. Sì, fin da piccolo. Addirittura una volta, mi ricordo che lavoravo in porto, mi trovai due giornalisti fuori dall'ufficio e mi offrirono dei soldi se io andavo a depositare dei fiori sulla tomba di Tenco, facendo finta di essere il figlio misterioso, il figlio segreto, e io li mandai a quel paese, giusto? E, oppure un altro aneddoto, io mi ricordo che un periodo che andavo, facevo il liceo, anzi no, mi ero iscritto al primo anno di università e facevo dei lavoretti per arrotondare, e mi ricordo che andavo a vendere calendari genovesi e andai a ritirare questi calendari in un ufficio, tipo al sesto piano, e prendo l'ascensore con un signore che sarà anche lui, e sei piani fino al piano terra con questo che mi fissa, quelle robe un po' imbarazzanti, no, da ascensore, sei lì, questo che ti guarda. E a un certo punto arriviamo a piano terra e questo mi dice: guardi, scusi, posso dire una cosa, lei è veramente impressionante. E dico: perché? E dice: guardi, lei è uguale a mio fratello, io sono Valentino Tenco, piacere. Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo 2 cowboy, bang bang, di colpo lei bang bang, lei si voltò bang bang, di colpo lei bang bang, a terra mi gettò. Secondo me purtroppo di Tenco è passato alla storia soltanto la sua morte, cioè la gente sa che Tenco è morto a Sanremo, punto. È uscito con questa immagine di ragazzo triste, depresso, grigio, malinconico, che non era così. Non era così perché io ho avuto la fortuna di essere per un periodo della mia vita amico di Fabrizio, di André, e anche Fabrizio a volte mi chiamava Luigi perché mi diceva: benissimo, siete uguali. Addirittura mi diceva: ma fumate nello stesso modo. E mi raccontava di Luigi, diceva: guarda che Luigi era tutt'altro che un depresso, cioè era uno... diciamo, a parte che in quel periodo erano tutti esistenzialisti, ma era quasi una moda, un atteggiamento, no? E mi diceva: guarda, Luigi del gruppo nostro era quello che era il più carino, quindi tutte le donne gli andavano dietro, era quello che aveva più interesse di tutti, perché infatti lui nella sua carriera ha fatto cinema, andava in televisione mentre gli altri non ci andavano, alla fine Luigi è andato a fare anche Sanremo in quegli anni. Era quello che, come dire, si buttava più di tutti gli altri, si esponeva. E però tra l'altro Tenco è stato il primo a scrivere canzoni ironiche, il primo a scrivere canzoni sociali e il primo a scrivere canzoni d'amore rivoluzionarie, perché mi sono innamorato di te, se pensiamo alle canzoni d'amore che giravano in quel periodo erano Claudio Villa e Nila Pizzi, no? Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo, il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. E soprattutto Tenco è stato il primo a scrivere le canzoni senza ritornello, mentre prima la canzone aveva una struttura precisa, la maggior parte delle canzoni di Tenco non hanno il ritornello. Mi sono innamorato di te non c'è un ritornello. Anzi, forse l'unica canzone che c'è il ritornello è quella che gli ha portato più sfiga di tutti, che era Ciao amore ciao. Che era Ciao amore ciao, che tu canti anche in maniera... Sì, con un altro testo, che è quello, perché Luigi aveva fatto questa canzone che era una canzone contro la guerra. La casa discografica gli disse di scordarsi di portare a Sanremo un argomento del genere, che non a Sanremo si parla d'amore, quindi che questa canzone avrebbe cantata con questa cantante francese che era Dalida, che cantava solo canzoni d'amore, quindi lui in 2 settimane dovette cambiare il testo, però gli dissero: guarda, tieni Ciao amore ciao perché è orecchiabile. Ed è, allora, detta da autore, è una violenza spaziale, perché, come dire, io scrivo le donne di moda e mi dicono: guarda, è bellissima, però fai gli uomini di Reggio Emilia. Dici: vabbè, ma cambia tutto. E questa canzone, con il testo antiguerra, cioè, ha un senso. Mentre quella di Sanremo, a me è sempre arrivata come una canzone, come una specie di incompiuta, no? Non si capiva bene questa canzone dove andava a finire. E credo che sia frutto proprio di questo cambio imposto dalla casa discografica. E infatti poi non andò da nessuna parte, fu eliminato subito. Erano 300, erano giovani e forti, andavamo al fronte col sole negli occhi e cantavano, cantavano così. tua carriera è una carriera veramente sul lotto volante. Sì. Tu sei veramente un autentico matto che ne ha fatte davvero. E se no non mi diverto. Di tutti i colori. Che cosa ti ha dato questo passaggio della tua carriera, appunto, folle? Ma guarda, io sono un bilancio ascendente gemelli, quindi sono doppio più doppio, aria più aria. E tra l'altro l'ascendente me lo fece una notte Fabrizio, che era una specie di mago Merlino. E ho ancora a casa la pergamena con tutto il piano astrale, i pianeti. E diciamo che sono uno poliedrico, quindi mi diverto ad avere più facce. E quindi sono andato avanti, come dire, in questa direzione che è la più difficile. E poi questo mio modo di, così, di pormi, che è quello di un'ironia molto, a volte molto sottile, che a volte viene anche fraintesa, perché poi l'ironia c'è anche questa doppia faccia, no? Questo, come dire, è un'arma a doppio taglio, perché a volte viene frainteso oppure non viene capita per niente. E in Italia l'ironia è sempre stata una cosa un po' di serie B. Alla fine poi noi ci piacciono sempre quelli che ci fanno piangere più che quelli che ci fanno ridere. E quindi è sempre un camminare, è sempre un navigare controvento. Però dall'altra parte invece ti dà anche degli stimoli maggiori, perché io poi sono uno che sono un pigro terrificante. Quindi il fatto di dover andare sempre controvento però poi ti stimola a cercare di fare sempre, come, di andare avanti. Anche perché poi alla fine in questo lavoro, che per me non è un lavoro ma è una passione che è diventata un lavoro, come dire, non, come diceva De Filippo, gli esami non finiscono mai, ogni disco, ogni progetto sei sempre sotto esame, come se cominciassi ieri pomeriggio, ecco. Ma guardiamo un po' oltre, adesso sogni e desideri, progetti? Ma un sacco, io quando faccio una cosa ne penso altre 100, che poi 50 le elimino, di queste 50 ne rimangono 4, in questo momento ho in piedi 3 progetti, uno cinematografico che è una sceneggiatura che ho scritto, che avevo lì nel cassetto, che ho ritirato fuori, ho rimesso a punto, ci sto lavorando con Luca Lionello, che secondo me è uno dei più bravi attori che abbiamo in Italia. È un film dove è una coppia di protagonisti, che così vediamo se questo progetto va in porto. E poi c'ho un altro progetto invece di cui non dico niente. Speriamo di saperlo, allora prima o poi. Prima o poi lo saprete con un pazzo vero, cioè, perché dei due, io sono pazzo ma lui è peggio di me, come che era quel film, c'era cioè, lui è peggio di me. Lui è peggio di me. E è un progetto musical teatrale, come dire, come lo definiresti? Non posso dire niente. Diciamo che è una cosa che può incuriosire, perché, come dire, insieme con questo siamo due personaggi abbastanza, come dire, davvero fuori controllo. Ho già un po' di paura. Out of control. Ma questo è il bello, se no nella vita facevo il geometra. Proprio il fatto di fare l'artista è proprio quello di essere imprevedibile. A me piacciono le sorprese, quelle belle, chiaro, quelle brutte piacciono di meno. Però, diciamo, dagli artisti a cui mi sono ispirato, che, come dire, o che sono stato fan, io da loro mi sono sempre aspettato sempre il guizzo, la sorpresa, no? Perché infatti una volta Fabrizio mi disse, in una delle nottate passate a casa sua, dice: guarda, noi abbiamo abbracciato la cosa più difficile, perché ogni volta devi stupire. Mentre ci sono artisti che devono sempre autoriprodursi in maniera uguale a se stessa, ci sono altri che invece devono completamente cambiare e spiazzare. Pensa, se io facevo Le donne di Modena 2 mi avrebbero detto: beh, l'hai già fatta. E quindi ogni volta, come dire, prendi la canzone e poi butti via lo stampino, devi fare una cosa completamente diversa. Ed è la cosa, è chiaramente più difficile, però è anche più stimolante. Francesco Baccini era la seconda voce in scena di oggi. Ci ritroviamo lunedì prossimo alla stessa ora.